Ingrid. Non sentiva Tommy da quando era andata in redazione. Non aveva idea di dove fosse. Sapeva solo che tutto era cambiato, per sempre. Non riusciva a staccare gli occhi dalla donna sullo schermo del suo laptop. Era entrata nel sito dell'Afton Pressen per leggere le ultime novità sul Me Too e all'improvviso quella voce. La stessa voce della registrazione nella macchina di Tommy. E quella che vedeva era la stessa bocca che gli aveva fatto un pompino. Ingrid stoppò l'immagine e si chinò sullo schermo per guardarla meglio. Julia Wahlberg era bionda, aveva grandi occhi verdi e labbra che sembravano nate per la pubblicità di un gloss. Era bellissima e giovane. Quanto giovane? Controllò su Wikipedia. 25 anni. Dopo una carriera lampo, era già considerata una delle donne under 30 più potenti di Svezia. Non l'aveva incrociata in redazione quel pomeriggio? Ma no, doveva essere solo la sua immaginazione. Ingrid entrò nell'account Instagram di Julia. 22.000 follower. Foto in studio, al bar, al tavolino all'aperto di qualche ristorante. Una foto da Palma. Anche Tommy c'era stato in luglio con un amico d'infanzia. Ingrid si alzò a controllare sul computer accanto al frigo. Stesso periodo. Da quanto tempo andava avanti quella storia? Guardò altri post. Quando vide che pochi secondi prima Julia aveva caricato una foto scattata alla taverna Brillo di Stureplan, tirò un respiro profondo. Salì al piano di sopra e si assicurò che Lovisa dormisse tranquilla. Poi andò in bagno, si truccò, si mise un bel maglioncino, prese la giacca e uscì.